Sei sola come me, il tuo castello inespugnabile, rime come un coltello di plastica abile a trafiggere perfezioni impossibili. Sei sola come me, nel tuo castello inespugnabile, rime come un coltello di plastica abile a trafiggere perfezioni impossibili. Perfezioni impossibili, perfezioni impossibili. Esci da te, corri fuori, esci da che torni di dolori, esci dall'impossibile di due cuori perfetti, esci dall'immagine labile dei due falsi difetti, esci e segui il vero che porti, trova luoghi in te sicuri che non trovi anche fuori, trova luoghi sicuri in te sicuri, trova luoghi in te sicuri sicuri. La tua solitudine è solo in te, non è reale, apri gli occhi e ritorna ad amare e volare. Solitudine solo in te non è reale, apri gli occhi e ritorno ad amare e volare. Scappa dalle brame di mille rime astute, scappa dai fantasmi e dal coma troppo perfetto, scappa da ogni supposto difetto, troppo lo hai tenuto dentro. Ama ogni tuo istante come se fosse l'ultimo, il tuo castello, ama un tuo splendido ponte, sussulto e attimo nel tuo castello, in cui sei perfetta e con quello scappa senza fretta. Prendi il tuo tempo, costruisci nuova fortezza. Sei sola come me, nel tuo castello inespugnabile, rime come un coltello di plastica abile a trafiggere perfezioni impossibili, a trafiggere perfezioni impossibili, perfezioni possibili. Esci da te, corri fuori, esci da che torri di dolori, esci dall'impossibile di due cuori perfetti, esci dall'immagine labile dei due falsi difetti, esci e segui il vero che porti, trova luoghi in te sicuri, ma che trovi anche fuori. La tua solitudine solo in te non è reale, apri gli occhi e ritorna ad amare e volare. La tua solitudine solo in te non è reale, apri gli occhi e ritorna ad amare e volare. Ritorna ad amare e volare. Scappa dalle brame di mille rime astute, scappa dai fantasmi e dal coma troppo perfetto, scappa da ogni supposto difetto, troppo lo hai tenuto dentro. Ama tuo ogni istante come se fosse l'ultimo nel tuo castello, ama ogni tuo splendore ponte, supposto e ultimo nel tuo castello, in cui sei perfetta e con quello scappa senza fretta. Prendi il tuo tempo, costruisci nuova fortezza. Sei sola come me, nel tuo castello inespugnabile, rime come un coltello di plastica abile a trafiggere perfezioni impossibili. Un coltello di plastica abile a trafiggere perfezioni impossibili.